essere necessario quasi un break di pochi secondi per dopo ci vuole cose molto intense che ci ha detto, ma ci ha detto la famiglia. Io la parola, questo di solito rifugio molto, diciamo, dai convenitori o da quei topi del discorso che possono passare per convenitori. Siccome non ho delle mie possibilità per mia natura schiva così in questi casi, diciamo, di casi con proprio sono visto stamattina, però nonostante tutto, anche se non sono conosciuto questi, se fossi più conosciuto saprete che io in genere non le lodi faccio magari solo alle spalle, devo dire per la verità che pure, diciamo, se devo ridotto con gli ultimi tempi a leggere questo libro, ho detto che è davvero un grande interesse. Che poco dire che un libro denso, perché un libro può essere anche denso di molte cose interessanti, però non essere intenso. Invece un libro intenso che ha dentro un'ispirazione molto forte, sulla quale diciamo già una cosa che è detto sicuramente, che questa ispirazione forse addirittura è così forte da rendere in un qualche modo il libro estremamente compatto, in un qualche modo quasi sembra per certi aspetti perfino per poco tempo. Non è che uno voglia leggere il libro e non lo devi mai leggere in altra casa, però quasi in altra casa, tanto è compatto. Proprio su questo magari per qualche cosa, quindi magari mi collegando anche a quello che diceva, diciamo, Michele, a proposito, diciamo, anche dei profili di piena contemporaneità, no? Del discorso, che in quanto ci coinvolgono. Il libro è molto compatto anche dal punto di vista storiografico, per le scarsissime cose che lascia, diciamo, non esplorate, non intravisto. E quindi è stato forse un po' per caso, un po' perché, diciamo, consulto certe cose, un po' per il gusto del non praticato, che mi è tenuto in qualche modo di proporre, diciamo, al centro del mio discorso, una riflessione attorno, per usare una metafora che attraverso molto felicemente nel testo di Brod, diciamo, per attraversare dei sentieri che conducono delle montagne appena intraviste, o diciamo in un qualche caso forse neppure, diciamo, ottenute presenti. Il picco, diciamo, la montagna più alta, diciamo, di questa giornata può essere sicuramente lì, e al quale perderò. Perché a mio parere rappresenta in un qualche modo, in un ramo certo, diciamo, la faglia di questo grande dei precorrimenti, insomma, degli antecedenti, così, però si può dire che, diciamo, è davvero l'antecedente più grosso per quanto riguarda una considerazione storicizzata del rapporto tra sacro e potere, ivi compreso quello del giuramento, anzi qui del giuramento, e qui del giuramento politico vi compare in una parte vista piuttosto marginalmente, e si apre il tempo, dirò, anche per il dato ho portato qui testi, ma credo che con vostra, diciamo, comune felicità non avrò nemmeno il tempo di aprirli. E il punto è che, diciamo, questa risposta estremamente forte, diciamo, che possiamo dire quella della piena storicizzazione del rapporto tra sacro e potere, la instaura a un certo momento della sua trattoria, e si può sostenere anche se, cioè, non esistono altre tradizioni, diciamo, disponibili in proposito, proprio a partire da alcune domande forti che a partire sostanzialmente dal diritto universale, poi dalla scienza, diventano dalla propriamente libertina, in senso stretto e in senso più lato. E si possono fare quindi anche delle considerazioni in relazione anche al tema del rapporto sacro-potere e al tema del giuramento politico, diciamo, in relazione all'impatto che viene da diverse urgenze, per così dire, della domanda. Ora, l'area libertina, quali risposte, proposte o tesi di fondo aveva elaborato quanto al rapporto tra sacro e potere, e quindi al problema di un fondamento metapolitico della politica. E in più, quest'area libertina, dal momento che non credo che si possa concludere il discorso solo a questa, nella misura in cui diciamo, era sorretta per larga parte, diciamo, di tutta la serie di fenomeni culturali che possiamo ascrivere dal riferimento a premesse di un'antropologia pessimistica, che potremmo definire con un'etichetta di comodo, ma che ha anche un suo fondamento storiografico, questo tipo di scelta molto forte, potremmo definire un'antropologia di tipo agostinista. Allora, queste domande sono solamente queste tesi estremamente importanti dal punto di vista del rapporto della sacra e potere, di una possibile fondazione non metapolitica della politica, sono da riferire non solo alla libertà, ma più in genere al grande orizzonte di un'antropologia che potremmo dire fa riferimento a premesse teologiche di carattere agostinista, onde la necessità di parlare a capo di persone quali, diciamo, la rappresentante insieme del giansenismo. Ora mi sembra che quest'area, in una qualche misura, diciamo, sia tra quelle intraviste o poco esplorate in qualche modo nel libro. È molto comodo, per così dire, diciamo, ai discorsi che di lui. Anche perché offre, diciamo, al discorso di lui anche l'opportunità di riflettere ulteriormente sulla estensione, importanza e anche incidenza storica di quelle linee che conducevano alla ipotesi, quale pluralità di ipotesi circa la possibilità di una fondazione non metanomica. Quali sono queste linee? La prima linea nota è quella che conduce, diciamo, poi espressa in modo analitico, estremamente argomentata nella pagina della Convenzione degli Inizi sulla Comete, all'ipotesi di una società di Atene. Ipotesi che strutturalmente, costitutivamente elimina il problema evidentemente di un fondamento metapolitico della politica. Se c'è una società di altri risposti, non c'è evidentemente nessun problema né, diciamo, di una presenza di Dio né di un timore della dioromia. Questa tematica ha naturalmente antecedenti antichi e credo che a problematizzare un altro luogo del discorso, diciamo, molto da Prodi, si potrebbe richiamare giocare in causa, diciamo, lo stesso Cicerone, sul quale per cui pagina degli uffici sicuramente è in modo illuminante, diciamo, si prendere mosso un certo arco di pagina anche proprio. E però, al di là della natura di oro che ci dice altre cose che confermano, diciamo, la necessità del vincolo, dice la comunità politica del politico, mi pare che gli uffici possa rappresentare canonicamente una pagina famosa l'idea che non c'è bisogno dell'Ida de Orum per istituire una società, diciamo, retta anche dall'utile, se però se l'utile si intende, diciamo, una ricerca della laus del cioè c'è il tema che il sapere sostanzialmente, ma non solo il sapere, tendenzialmente un'intera comunità si può reggere sulla premessa della coincidenza sostanzialmente dell'utilità con l'onestà e quindi con l'utile. Questa tematica naturalmente non poteva avere se non una forte, insomma, essere sottoposta di un'opera di opposizione, di riduzione, diciamo, in tutta la cultura cristiana e così via, però emerge fortemente, direi, nella cultura umanistica, evidentemente, e emerge come ipotesi, pensiamo anche, diciamo, un po' a Valle, pensiamo ai primi autori antichi, emerge come ipotesi che ci sia, dicevano, una perennia. E la premessa di questo tipo di perseguimento parziale e raramente totale di questa linea naturalmente riferimento alla tipologia di carattere ottimista, la quale fa più riferimento a questo punto, diciamo, alle premesse, potrei dire, io qui vado davvero per la classificazione operosa, ma vorrei, per questo dire, diciamo, non sfuggire alla sollecitazione a pensare in grande, anche se in modo più immediato, che c'è un testo di metodicità, e anche cercare di essere un po' meno noioso, come mi dice, mi spingeva da non essere la schia stamattina. Allora, e sicuramente nella questione di cui c'è un'antropologia, almeno parzialmente, moderatamente ottimistica, è possibile anche intendere, diciamo, questa la prostituzione di questo tipo. Finora che quindi o trova in certi ambienti, anche in quelli di area cristiana, diciamo, in fondo delle premesse dell'autonomia delle politiche, diciamo, della sistemazione domistica del aristotelismo, o trova, diciamo, altre possibilità delle forme di naturalismo, per così dire, che poi si definiscono anche dalle esperienze di Berlino. Facendo la storia di questa c'è anche per esempio Charlotte, evidentemente. E c'è, per certi aspetti, c'è anche Foucault, quale non è un testo recondito, ma è un testo che mi sembra non si. Ci deve mandare a vedere quando questo passo si sta espungendo nelle varie lezioni dei sermoni. Ci dice che è preferibile che ci sia un altro piuttosto che un cristiano superstizioso, perché offende Dio il cristiano superstizioso, avere una pessima immagine riduttiva antropomorfica di Dio e non l'altro. Questa tradizione, però, naturalmente, non questa seconda, per così dire, questa, diciamo, del fatto che ci possano essere dei sapienti che possono istituire una società senza Dio, può naturalmente non collidere con quella del ricorso al filo di coda, al timore di Dio, al deorum metus, perché evidentemente può risultare poi praticata da Bacone, praticata anche da Scialdoro, che appunto questa bibliotetica società sia una società di sapienti, ma essendo la moltitudine del volto, diciamo, attraversata e soggiogata alla dimensione dell'immaginazione superstiziosa, ecco che il vincolo religioso deve essere richiamato in causa. Oltre, evidentemente, sono cose più che note, diciamo, il tema della doppia verità che permette in un qualche modo di recuperare pienamente il tema del vincolo religioso e quindi il tema del giuramento come necessario a, diciamo, al corpo superstizioso. Però, e attraverso testi come le Catrende di Visti, altre, eccetera, e attraverso tutta una serie di autori, sorgeva comunque, restava il sospetto che anche a non far sapere quando, al contadino quando sono quando il buon piace con le pere, la cosa si venisse a sapere. Onde, diciamo, il fatto che rimanesse, diciamo, per così dire, il repertorio di un sapere di Italia conteneva comunque possibili vizi di corrosione, diciamo, del tessuto culturale, del costume civile, e quindi la serie di lepre che noi conosciamo, tra le quali dice anche. Metto in disparte per un momento questo tema e anche, diciamo, autori che portano fino all'estremo, perché sono autori molto interessati, da molto conosco, un certo D'Acosta, come per il legato, che scrisse molto su queste cose, un convertito all'ebraismo che poi, diciamo, è intervenuto su questo tema della paura di Dio. Ci sta un saggio abbastanza interessante che, dal punto di vista metodologico, nella critica alle posizioni di corrente della storia del pensiero politico, non solo europeo ma americano, e anche la scuola revisionistica, diciamo, si è interessata a questo tema della filocondotta. Ed è un certo David Hutton, che l'autore di un libro non molto bello su Sartre, ma autore anche della stessa ricerca su questo. Ora, c'è un'altra linea invece, alla quale penso che non si possa fare riferimento per quanto riguarda, diciamo, è una linea che raggiunge i nostri giorni, che in un qualche modo evita alla radice il tema della fondazione metabolica del mondo. E questa linea è ascrivibile pienamente, diciamo, ai risultati di un'antropologia pessimistica, di stampo dichiaratamente agostinistica, di matrice giansenista, quella la ritroviamo nel secondo seicento, con appena decedere fino a seicentesi, in Nicola, per esempio. Quanto? Dall'idea che la natura umana sia radicalmente, diciamo, determinata dal peccato, non si trae la conseguenza del remedio provvidenziale di Agostiniano, ma l'idea che, essendo ogni virtù null'altra che la maschera del vizio, è anche vero che ogni vizio può essere mascherato, tende a essere virtù. Allora, se ciò è vero, dalla premessa di un'antropologia pessimistica, può essere tratta e fu tratta la conseguenza che per una regolazione più o meno provvidenziale, o comunque spontanea, del giuro dei vizi privati che si convertono in virtù pubbliche, nasce l'umana civiltà con una sua, diciamo, tendenza alla interna autoregolazione, che evita il problema di fare riferimento a un vincolo metapolitico, diciamo, di tipo religioso, per cui, diciamo, ci sia bisogno che il volto che creda, diciamo, negli dei o nella divinità. Ora, questo non mi sembra di estrema importanza, perché un buon ricordo è rimasto solo ispiro dall'altra parte, bene, ma in braccio dall'altra, sicuramente dico, e questo credo che sia qualche cosa proposta sui nessi dalla cultura napoletana in questa moralistica e giansenistica dell'arte secentesca francese, ma attraverso Mandelita, attraverso Nicole, l'ha detto da loro, attraverso loro, ma soprattutto attraverso Smith, finisce col diventare sostanzialmente il fondamento teorico della credenza nel libero mercato, nella spontanea regolazione delle cose. E in quale mondo adesso noi ci troviamo ad essere, se non in un mondo che crede di non aver bisogno del vincolo metapolitico, perché sostanzialmente non solo la politica, ma l'economia, la società intera, sostanzialmente si autoregola. E quindi il problema con cui dobbiamo fare i conti non ci rinvia anche a fare i conti con le fondamenta teoriche di questi discorsi. Per cui, diciamo, per un'altra di queste strane, diciamo, trasformazioni, non so se chiamarle provvidenziali o meno, perché c'è in qualche modo una mistura, per così dire, tra molte virgolette, di provvidenzialismo, in qualche modo, che assimila con uno profondo spirito filiale il testo di Prode al primo dito, e beh, io direi che questa è una delle conversioni della storia, quindi dal dualismo più radicale, che è quello agostinista, si giunge, per così dire, alla ricognizione della possibilità di tutta una serie di forme della convivenza umana nel suo complesso, da quelle economiche, sociali e politiche, lette nella forma della spontanea autoregolazione, che nasce da una natura umana proprio perché questa è una natura umana peccaminosa. E questo Dio, tra l'altro, giunge attraverso le braccia, attraverso il corpo, giunge anche, diciamo, bambino, nel tutto il mondo. Allora, questo mi sembra una seconda alternativa estremamente importante. Io non vorrei che solamente la partenza così lontana stavesse in un tempo, ma comunque, perché sono arrivato appena nei primi due libri di una serie di 7-8 scritti, che ho scritto l'altro libro frettolosamente. Però mi preme a questo punto a me di evocare altre due possibili linee che sono ancora nel senso, diciamo, della evasione dal problema della fondazione della politica e della politica. E uno è quello un po' minoritario, però non va, diciamo, sottovalutato. Si parla di Charron, beh, Montaigne, c'è quel passo famoso dei cannibali in cui si dice, compare, come sappiamo, diciamo, una delle prime formulazioni del cosiddetto mito del conservato, cioè quello del classificare l'astronomia, e tra altre cose nessun traffico, nessun commercio, nessun patto. E allora c'è un mondo della ressa della natura, del ritorno alla natura, in cui di matrice storica, eccetera, eccetera, eccetera, nella quale, diciamo, c'è la possibilità sostanzialmente che non si vive, diciamo, forme, diciamo, partizi, e tanto meno un loro fondamento, diciamo, di carattere metapolitico. Naturalmente questa resta vagheggiamento utopico, vagheggiamento di un'utopia della fuga, potremmo dire, stando la classificazione, diciamo, delle utopie presenti in una certa letteratura critica, tra l'altro anche a proposito di utopie, potremmo dire anche quella, diciamo, fa riferimento a un'altra linea possibile di fondazione non metapolitica del politico, ma di assolutizzazione della politica. L'utopia anche un genere letterario, una forma di scrittura, una forma di immaginazione attraverso cui si immagina un laboratorio teorico nel quale vengono costruite, diciamo, una costruzione totalizzante in una qualche misura, senza che assolutamente ci sia altro che il modello, la pienezza del modello teorico della forma. E forse bisogna anche pensare a un altro tipo di discorso, di genere, di scrittura, di genere teorico, di discorso, che, diciamo, evita questo problema, che è il problema che il genere di discorso che si appare dei riferimenti ai miti storico-politici. Anche qui ci sono modelli di carattere storico-politico che in qualche modo, diciamo, non rendono necessario. Lì il fondamento è, diciamo, all'interno della storia di anziano regime, in ciò che già c'è stato, perché per il solo fatto di essere stato, di attingere la perfezione e di aver dimostrato di poter attingere validamente a un relativo totale immortalità, dimostra che le costruzioni umane razionali sono solo possibili. Qui faccio riferimento, non so, a un amico come quello di Heidegger, che sulla propria storia ha scritto una raccia molto intelligente, questo ragionamento è molto lucida, diciamo. Devo a questo punto, diciamo, andare avanti e passare a questo punto. Allora, Vico naturalmente non risponde a queste ultime, diciamo, linee, ma solo a quelle di cui ho parlato, ma piuttosto, per così dire, mi sembra che si possa dire, come ipotesi problematica, che assume piuttosto elementi della seconda, o comunque consuetudini importanti con elementi della seconda, cioè con questa idea che comincia a circolare della spontanea produttività sociale, degli elementi di peccaminosità dell'uomo, li assume per rispondere, diciamo, alla grande spinta di libertà, cioè di diritto universale. Una sorta di repertorio formulare, poi, diciamo, così per tutto, vale a dire, parlato un quarto d'ora, ovviamente, assume come repertorio formulare questa cosa, questa linea, Epicuro, Machiavelli, Hobbes, Spinoza, Bello. Poi, dalla scienza moderna, non a caso, assume Bello e incomincia la scienza da prima, non citando Bello, ma citando la società di Bottega Sottegliata, dalla quale si risponde, e chiudendo Rome. Quindi, grosso modo, come dice Bello, dopo il saggio importante che scrisse Garelli sulla cultura di Bello, in Italia non è stato scritto nulla di altro, ma credo che si possa non solo parlare della presenza di Bello molto forte, da proprio come d'oro, che avrebbe molto bella, anche per il nostro discorso, non è il caso di dialogare, si potrebbe sostenere che la lettura del soprattutto del, una fermentazione proprio del visionario, la lettura della fermentazione di pensiero sulla commedia fu largamente presente e diciamo, stimolò il discorso veramente la risposta di se avessi tempo, stando l'argomento di tutto l'altro ciclo, si potrebbe seguire a questo punto diciamo, il discorso di Vico attorno alla fortuna di quella locuzione che attraverso tutta la lettura del pensiero di Chiara, dalle relazioni naturali fino alla scienza quando egli definisce, sulla base della locuzione famosa, diciamo, la sapienza come divinarlo, come la non scienza, anzi, questo termine si è mal tradotto nella traduzione italiana, distingue dal punto di vista esterno, diciamo, la scienza delle cose divine dalla prudenza delle cose umane. Prudenza che quindi tradotto in genere proprio in tradizione come saggezza, proprio diciamo, uno sbaglio di un errore colossale che andrebbe sicuramente diciamo, corretto, diciamo, rivisto. Se non proprio il tempo di fare questa la storia di questa locuzione, che però di questo ci ce lo dà. E però qua c'è il dono del capo del diritto e il consiglio che trovare in un piatto ed è ripreso tra le diciamo, dell'Occidente. Ora, la tesi di fondo, ma pure stigmatizzare, utilizzare questa posizione, si può dire così. Prima inizialmente dito si pone il clima con una consapevolezza della natura estremamente differente nel sapere delle cose divine e delle cose umane, e riflette sostanzialmente dal punto di vista epistemologico attorno diciamo, a questi due anni di discorso e poi naturalmente riprende quella tradizione che appunto è quella che ho chiamato questo modo Cicerone A, classico umanista. Compito dei sapientes è, diciamo, al contrario di come avevano fatto i greci, ma come avevano fatto i romani, qui c'è il riferimento chiaro al liberatore di Quindiano, c'è il riferimento al liberatore di Cicerone, Quindiano, così via, c'è la ripresa di quella tradizione che è tendenzialmente quella della costruzione di una società in cui non c'è bisogno del vincolo del timore religioso. Perché la sapienza, la scienza delle divine cose, deve essere unita alla prudenza e attraverso l'eloquenza riesce ad attivare quelle masse che dal punto di vista del linguaggio cartesiano, tardo cartesiano, sono abili all'immaginazione e alla fantasia di portarle, di condurre alla razionalità, onde un modello di carattere umanistico che tende a evitare evidentemente il problema dell'uso della religione come vincolo. E quindi la risposta a Magliarella avviene in un modo che in qualche modo fa sì che si retroceda di qua dell'assunzione fine del termine dell'utilità. E quindi una risposta significativa, però in un qualche modo, se vogliamo, nella sostanza ancora di retroguardia, potremmo dire, tra virgolette. Cosa succede invece dopo? Che Vico si può dire tutto il pensiero che si riflessiona attorno a cose divine e a questo umano, però qui Vico comincia a discutere la riflessione sul santo. Vico non è il pensatore interessato al sacro in senso stretto. Ha scritto una vita che si può iscrivere nel genere letterario le cui premesse sono, da una parte, il modello classico umanistico dell'autobiografia, della biografia diciamo, del sapiente, dell'eroe, e dall'altro il modello cartesiano della biografia intellettuale. Sicuramente diciamo l'ispirazione di Vico agostiniana. Vico è nella sua cronologia debitore di un agostinismo politico molto forte. Ma non è sicuramente portatore di una sensibilità, un'interiorità, una profondità dell'interiorità, uno scavo della profondità dell'interiorità. Il sacro gli comincia a interessare non come scavo sull'interiorità, ma come fenomenologia storica del sacro. Appunto perché il sacro si chiama il e c'è questa sfida per cui diciamo o il sacro che costruisce la sacerdotà, oppure addirittura si può vivere in una società del sacro. Questa è l'alternativa secca. Rispetto alla quale diciamo, il mondo diciamo, ortodosso non ha saputo attrezzare risposte, tanto meno risposte epistemicamente molto alte dal punto di vista diciamo, procedurale, come conoscibile, con la necessità che le risposte siano realizzate nella forma di una scienza. E senza dubbio, un po' eretticamente, ritengo molto difficile, tra l'altro, dei modelli che oggi epistemologici cartesiani, per il pregiudizio che mi ha di andare dal semplice al complesso e attraverso. Non è proprio questa cosa per il posto di dire, guardate, una mia lettura abbastanza personale, perché mi pare che questo sia poi il modello che rende la lettura di Vico della storia dell'invece cansata. Ecco, perché? Perché a questo punto si può dire la storia di Vico va dal divino all'umano, strada. E dove però il divino, posto in essere questa storia, per l'oggetto di una scienza che in qualche modo ha un carattere divino, perché il divino diventa naturalmente la fenomenologia del sacro su questo sioso. Allora, lo schema di segno, qui lo dico però, penso sia una cosa abbastanza nota, è quello di una presentazione originaria del sacro. Quindi c'è un tema che sostanzialmente è straordinariamente innovativo, una concezione della storia. Cioè, invece di come ci dicono la sapienza del lavoro dei dotti delle nazioni, voi sapete, all'inizio c'è una ipersacralizzazione del mondo. Il mondo è pieno di divinità, c'è una forma di animismo, di politeismo, punto. Nello stesso tempo vi assume, come sempre succede, secondo la strategia che vi è proprio, di assumere, di raccogliere tutti i terreni, far proprio i terreni di avversario, assumere il materiale concettuale, abbandonare le trincee meno difendibili e costruire una grossa casa madre, per così dire, diciamo, inaccessibile, con il materiale dell'avversario. Il materiale dell'avversario che nasce col timore, la sua parte invece nasce col timore, però questo timore viene scaldato dal pudor originale, però nasce dal timore. Questo timore, però, questo è il punto, originariamente, nell'età in cui tutto è sacro, non ha bisogno, essendo in uno stato, per così dire, di capacità conoscitiva estremamente limitante, non ha bisogno, spontaneamente, in escarcio delle prime forme di convivenza umana, delle forme delle famiglie, delle clientele, non ha bisogno del timore del sacro imposto razionalmente. Spontaneamente i lumi, diciamo, tendono a cogliere in ogni cosa, in ogni istituto, un elemento divino. Allora, inaccettato la presenza dell'ogni religiosità, però allo stesso tempo questa presenza non si trasforma, diciamo, nell'accettazione della tesi dell'impostura sacerdotale, come nasce la religione, e non consente ancora, questo è il punto, di introdurre elementi di carattere giuridico, quindi nemmeno elementi del giuramento. Perché qui siamo in un'epoca pre-civile, in cui ancora non è stata fondata la res pubblica, nella quale ci sono questi grandi club, questi istituti familiari, con i loro clientes, tra i quali il rapporto che vige è un rapporto di pura forza, cioè un diritto sostanzialmente naturale, che è il diritto di una certezza massima, che però non si esprime attraverso norme positive, non si esprime nemmeno il rapporto minimamente di uguaglianza tra gli elementi che costituiscono questa società embrionale, quindi non ha bisogno né di giurisprudenza positiva né tantomeno di patto di giuramento. La grande età del giuramento, del patto, è l'età, diciamo, è l'età degli ottimati. Qui Pito istituisce pienamente nella giurisprudenza arcana, in quanto è patrimonio, come tutto il mondo culturale, per così dire, religioso, giuridico e così via, di coloro che detengono il potere, introduce l'idea poi che attraverso le secessioni che si sono aperte e così via, si uscirà, come sapete, da questo schema, in questa grande fase, in queste grandi aree, la giurisprudenza è una giurisprudenza certa, che si avvale della mera lettera, per rispetto della mera lettera del dato, è in questa giurisprudenza che non si fa più riferimento semplicemente a un'utilizzazione, a una presenza per vedere del sacro sotto forma meramente cerimoniale, che vive veramente, diciamo, vicino ai risultati dell'antropologia culturale, così dire. Inizialmente l'uomo, queste prime comunità non sono altro che tutta cerimonialità, ritualità sacra, che non ha bisogno naturalmente di un'oggettivazione di lingua giuridica. In questa seconda fase, come noi sappiamo, gli ottimi, i capi, diciamo, per così dire, delle grandi famiglie, dei grandi clan, unendosi tra di loro, creando, diciamo, una repubblica di tipo aristocratico, altra grande unità innovativa di Pito, si uniscono tra di loro e creano una forma di giurisprudenza che richiede a questo punto il giuramento. Il giuramento, però, a questo punto, e questo mi pare che vada molto bene, diciamo, utilmente, diciamo, all'interno del discorso che è stato. Il giuramento ha una funzione meramente, diciamo, aggiuntiva, addizionale. Su questo punto recepisce di madre, e mentre rinnova profondamente attraverso la storicizzazione di ogni istituto, anche la, diciamo, la considerazione dell'istituto del giuramento, in cioè del giuramento e poi del giuramento politico, innova, diciamo, assumono all'interno di questa innovazione gli elementi di innovazione che ci sono all'interno dei processi, per così dire, di depotenziamento dell'istituto del giuramento. E usi sempre il termine confirmare. Allora le leges, delle cosiddette leggi sacrate, cioè le sante, sono confermate dal giuramento, che quindi non, diciamo, implica nessun elemento di mutamento del carattere dell'obbligazione giuridica. Allora, ecco, mi sembra importante, cioè, che ci sia questo elemento, non solo per quanto riguarda il giuramento politico. Il giuramento politico, che è ciò che non qualche parte così importante, più avanti, avviene di questa considerazione della vita del diritto universale solamente a proposito del costituirsi di nuove forme di sovranità, quando qualche uno detentore di una sovranità, soprattutto nel passaggio dalle forme pubbliche, dalle forme medie, dalle res pubbliche medie, dal passaggio alle res pubbliche miste, è costretto a cedere in un qualche modo parte della sovranità. E qui ci sono anche un'altra serie di indicazioni che potrebbero essere riprese, tale a dire che anche in questo caso, diciamo, Vico mi sembra che sia abbastanza vicino a una serie di linee interpretative del giuramento che portavano a innovarlo, e facendo riferimento poi alla pena possibile, non si riconduce appunto tanto al metus leorum, leorum metus dei metus, perché fa riferimento appunto che l'unica pena possibile tra gli uomini è quella sostanzialmente di una cattiva fama, in relazione, diciamo, alla malizia delle proprie azioni. E poi aggiunge anche, mi pare, ma Andrea Loretti testi, che chi giura sostanzialmente quando obbligato, sottoposto a una pressione eccessiva a giurare, può essere ritenuto, diciamo, svincolato dal statuto, sottoposto a una pressione giuridica, può essere ritenuto svincolato, diciamo, dalla parola data. Io concludo a questo punto, diciamo, la ricognizione del pensiero di Vico con, diciamo, il punto fondamentale. Se l'apogeo della dimensione contrattuale del diritto, e quindi anche del patto, del giuramento, si ha dell'età, diciamo, eroica, che poi è quella ricorsa nel mondo femminile, allora il problema è cosa ne è, diciamo, del giuramento, comunque, diciamo, di una fondazione metapolitica del potere, che già abbiamo visto addizionata al punto più alto, diciamo, della sua utilizzazione nel mondo dell'età o illuminata. E qui tendenzialmente c'è da dire che, facendosi l'età degli umani illuminate, tutte, inoltrandosi l'umanità sempre più nel possesso della ragione, quindi della coincidenza, della combinazione tra verum e ceptum, tra verum e verum, a maggior ragione, diciamo, una fondazione metapolitica, diciamo, dell'obbligazione, viene meno. E la razionalità, per così dire, finisce col verbale di termini più umani, per cui la dimensione contrattuale, la pizza, a maggior ragione del giuramento, finisce con l'avere, per così dire, una tendenziale vocazione all'esaurimento e comunque al depotenziamento. E in questo Vico, diciamo, è davvero, si torna a essere liberato pienamente in un'età di un preluminista. Quindi rientriamo naturalmente in tutti i discorsi che riguardano poi il pensiero politico di Vico, e così a questo punto ci interessa di meno. Però l'indicazione forte è quella di un pensatore che lavorando tra la storia della civiltà, quindi alla storia del diritto, anche alla storia del giuramento, diciamo, ne ha scoperto in termini, diciamo, abbastanza straordinariamente precoci, diciamo, gli elementi di secolarizzazione, che in qualche modo ha depotenziato questo istituto addirittura già al suo concetto, figuriamoci nell'inoltrarsi, diciamo, dell'umanità, diciamo, della più spiegata razionalità. Mi sembra, avremo qualche cosa da dire, ma mi sembra su questo, insomma, posso concludere, insomma, scusandomi se ho usato un po' del vostro tempo.